C'è anche un piano B eventualmente, no? Quello di prendere parte a una staffetta. In molti casi c'è anche la possibilità di farlo con scopo beneficenza. Direi un'iniziativa riuscita. Tu che hai corso tanto in tutto il mondo, ti piace questa idea di Milano? No, non solo mi è entusiasmato, difatti io l'anno scorso per motivi un po' che ero non troppo preparato, ho fatto la staffetta all'ultima frazione e ti devo confessare che mi sono divertito moltissimo, rappresenta l'alternativa per moltissimi per approcciarsi alla corsa e anche alle corse lunghe.